sa, provala, prola. Fra poco in onda, Music Vox Populi. Tipio, vorrei essere seduta a dirti una cosa, che nonostante tutto il tempo passato adesso abbiamo esagerato. È un momento un po' particolare, voglio essere lasciato stare. Metti in borsa quella crema solare, così non ti puoi scottare dalle mie parole, dalla mia ansia da prestazione, da quell'illusione. Tu sei sicura d'aver preso il biglietto? Guarda piove e farà e guarda mio nome a me. Dopo le vacanze pasquali e ritorna con un evento perché praticamente a differenza delle altre volte oggi sì, si parlerà di artisti semi sconosciuti, artisti anche d'altra parte conosciuti, perché comunque ho dei bei nomi grossi, a dire la verità, che suoneranno qui a Firenze il 29 aprile. Perché appunto il 29 aprile c'è un evento organizzato dal che si chiama Call from Zion, che è praticamente un irresistibile richiamo fresco e genuino che trasporta l'anima verso le radici di una musica e di un mondo tutto da scoprire e da osservare con occhi attenti, nostalgici di un grande passato, ma consapevoli di essere ogni giorno davanti a nuovi orizzonti. Questa qua è una piccola descrizione di Call from Zion. Praticamente è un evento reggae, dicendocelo in maniera spicciola, organizzato il 29 aprile a Firenze, organizzato dal mio amico Deep, senza dire anche il nome perché sennò poi l'ho andata ad aggiungere su Facebook, fate tutte quelle cose, lo stalkerizzate, poi assomiglia anche a Lodo Wens, quindi ci starebbe anche a dire la verità. Quindi Call from Zion, appunto questo, ed è che si impegna a sottolineare l'importanza delle origini della black music nelle sue sfumature jazz, swing, ma con particolare attenzione a quelle reggae roots, consapevole però della grande rilevanza della ricerca sperimentale delle atmosfere sfumate e poetiche dell'ambient dub e di tutte le invenzioni elettroniche che sposano il ritmo in aree. Praticamente gli artisti emergenti, ovviamente per anche gli anti abbiano un pubblico che li guarda, perché appunto se ovviamente se chiami il nome grosso, ad esempio prendi l'Ideas Festival, dove ci saranno i Linkin Park a suonare, far emergere appunto degli artisti nuovi, come quello, come anche lo scopo alla fin dei conti di Music Vox Populi. Quindi io, essendo anche amico di Deep, ho sposato questa sua... è grossa, abbastanza grossa. E andiamo a parlare di Bonnet, che è praticamente un compositore che suona una varietà infinita di strumenti, Dead Prez, ha suonato addirittura al Madison Square Garden di New York di fronte a un'arena piena, composta da 20.000 persone. Quindi adesso noi ce lo sentiamo con il miglior, come migliore alla fine dei di quell'anno là. Quindi ce la siamo con gli Assalti Frontali. Mi sa che state... Cosa fa quel tipo sotto il mio balcone? Da quanto tempo e lì saranno già due? E che faccia guardo da morire? Garti sai ma come un'impressione. Con quel giornale quante volte l'avrà letto? Mio telefono che gacchia mo lo butto. Non mi piace mica sai io rigo dritto. Non faccio male da zitto va. L'altra mentre andavo nella metro un brutto nuso ce l'avevo proprio dietro. Il cane da tartufo all'uscita m'ha mollato. Mi sa che ero l'avvocato. Guidavo in moto in mezzo al traffico. Ce n'era uno dietro sul percorso identico. E ritorno chi ti incontro sul portone, qualcuno che leggeva sul citofono il nome. Mi sa te, mi sa che stanotte, mi sa che stanotte, mi sa che mi arrestano stanotte. La galera è brutta si sa, e l'idea di marcirci dentro non mi va. Forse è meglio che, forse è meglio se ho la larga da qua. Parlo di progetti ti dico, ma sto pensiero mi capisce. Nel cuore della notte battono alla porta. È la tua festa ma non ci sono amici e non c'è torta. Tenevi a letto come fossi un santo. Dormi sereno perché hai dato e hai dato tanto. Nel cuore della notte ecco il campanello. Ed è solo l'inizio di un brutto cielo. Così sto sveglio, darmi male aspetto. Quando è mattino so che non verranno. Allora gli occhi sì che mi si chiudono dal sonno. Io li alzo al cielo con un certo sollievo. Forse è solo paranoia quello che temevo. Intanto vado ancora qui e lì come voglio. Intanto ti vedo ancora quando ne ho bisogno. Mi sa che stanotte, mi sa che stanotte, mi sa che stanotte, e ma restano stanotte. La galsa di marcirci denti va. Che forse me ne vado un po' da qua. Il mio problema è che sono troppo, troppo. Ma lascia stare intanto rappo e non mi stoppo. Devo salire fino in cima alla top 10. Fare concerti a Tokyo e ritornare con un mucchio di yeah. Voglio lasciare la mia umida cantina. Faccio su un uovo d'oro anche la mia gallina. Voglio viaggiare per il mondo finché ho tempo. Aiutare bimbe e bimbe nella presa. Mi sa che stanotte, mi sa che mi arrestano stanotte. La galera è brutta si sa, e l'idea di marcirci dentro non mi va. Forse è meglio che, forse è meglio se me ne vado un po' alla larga da qua. Stanotte non so se è pronto il mi sa che stanotte mi sembrava importante. Mi sa che stanotte però, se sei vicino non mi piace. Mi sa che stanotte pesante, bella. Bella per Bonnot. Questo qua era appunto uno dei pezzi suoi prodotti da lui. Questo qua in compagnia degli Assalti Frontali. Big up per gli Assalti Frontali come al solito. Costerà 10 euro più diritti di prevendita. Quindi per chi ce li ha vada, perché sono ben spesi al mio modesto parere. E fra i tanti artisti oltre a Bonnot c'è anche Chisco. Chisco è un tizio che nasce musicalmente 14 anni fa, dopo un viaggio in Inghilterra che rivoluziona il suo modo di vivere e di vedere le cose intorno. Una volta tornato, infatti, si dedica con cuore ed anima alla musica hip hop, frequentando il muretto di Viareggio, tra le sfide di freestyle e giornate a pompare musica rap. Tanto allenamento, tanti sacrifici, rinunce e poche parole, se non quelle scritte sui fogli. Nel 2000, il sound system di Blackheart rappresenterà l'anello di congiunzione tra Chisco e la musica giamaicana, e da esso scoprirà le vibrazioni dei più famosi DJ già stati presenti. Nel 2001 diventa una delle voci reggae ben tosco salentina Working Vibes, anzi una delle due voci che ho detto. e niente, avevo tre album tipo Dance Solution, il primo lavoro della band distribuito da Venus e prodotto da Royal Record. Poi arriva Su qualsiasi ritmo, mixato a Londra dal maestro Dennis Bovell, prodotto ancora da Royal e distribuito da Venus. E poi suona tranquillizzato. E nel frattempo ha partecipato anche a The Voice of Italy, arrivando addirittura fino al Blind Day Audition. Quindi è andato anche in diretta su Rai 2, giusto così, il vento. Io ce l'ho con voi, che avete deluso del tale, poi noi che per uno stipendio facciamo gli eroi, cervelli in fuga da anni ormai, che altro succederà poi? Io ce l'ho con voi che avete illuso voi stesse, poi noi legandoci le corna come mandre di voi, saluto tutti e scappo via, questa vita non fa per noi. Ciao, me ne sto andando via da quest'Italia dove non mi sento più a casa mia, i miei quartieri, i miei palazzi, la mia periferia, ora che sta cadendo al suolo anche l'ultima paratia, tutti in cerca di un lavoro, anni cos'è il futuro, vieni qua che c'è lavoro ma solo se vendi il culo, una volta ci chiamavano geni incompresi, gli stessi geni che oggi viaggiano a vuoto per mesi e mesi lontani dalle famiglie, dai propri, quando torni lì non li riconosco in sala lei, ma prepara il sugo e che rabbia, Dio se mi mancava questo profumo, quante volte ho sognato l'Italia, nella metro sul tram soffocavo, mancava più dell'aria, mi chiedo cosa sia successo, non basta un dito medio, se all'italiano ma vivere a casa o solo in un monolocale, dici mamma dai non piangere, poi lacrime sul cellulare, siamo cervelli in fuga e sei quanti, precari studenti, creativi e braccianti, prova solamente un giorno nei loro panni come Luca torna a Pezia, perché se torna adesso non troverò casa mia, ma un posto dove ogni problema basta una bugia, come una villa l'angelita senza malattia. Il vento ci spinge lontano, non mi manca il fiato, mi senti bussare, ma nessuna porta si apre. Il vento di Chisco, featuring la grandissima e la bellissima Mistilla, ed eccoci qua appunto, come avete potuto sentire, oltre ad essere grandi artisti e bravi artisti soprattutto, parlano anche di argomenti belli pesanti, come ad esempio Chisco ha parlato in questo pezzo della disoccupazione, della relativa fuga dei nostri giovani dall'Italia, che quindi ha riscosso molti consensi in, appunto nel nostro stivale, ma non solo dall'ambito reggae, perché alla fin dei conti se avete imparato a conoscermi un pochettino, io vario diciamo su molti generi, però uno dei miei preferiti assolutamente non è il reggae, ma bensì il rock o insomma l'acustico, quei generi un pochettino che tendono più sulla potenza e sulla bellezza, insomma. Però comunque il reggae, dai, diamine, di che stiamo parlando? È un genere della Madonna, ovviamente, quando si è, insomma, in determinate serate, tipo da noi c'è un locale che si chiama giù da noi, che praticamente è una, molte volte durante l'anno, si chiama Ragga, e niente, lì è l'apoteosi. Ti metti in pista, ti stai tranquillo, ti senti la musica, magari anche toccato da un effetto particolare di una donna, che potrebbe avere anche due significati questa frase, capiteli, e niente, quindi rispetto per il reg, rispetto per Chisco, rispetto per Mistilla, rispetto per tutti quanti quelli che pompano questa musica e questi ideali, che parlano di questi temi. Un altro che partiamo per l'appunto, Junior V, all'anagrama Vincenzo Stra, ed è i talenti più interessanti dell'attuale scena conscious reggae e black music italiana, e non solo. Le sue influenze musicali sono molto ampie, lui, alla fin dei conti, è un chitarrista e bassista, sin dalla tenera età di 9 anni, quindi suona da una vita. Cresce musicalmente, si affaccia nel reggae, grazie ad alcuni artisti di fama mondiale, tra cui Clinton Fearon dei Gladiators e Walling Souls, così come Sisla Calongi e Luciano. I suoi testi sono ricchi di consapevolezza e spiritualità. E in tutto questo il ragazzo ha 18 anni, è un artista pugliese e esprime il massimo, espressivo i suoi sentimenti già padrone a questa che è una cosa, cioè, incredibile, a 18 anni già questa concezione di vita. E lui appunto a 18 anni riesce a scrivere brani e arrangiarli per renderli molto più personali ed originali. Il suo stile particolare ha permesso di coniare un genere che va dal roots, reggae e all dub a varie sfumature black, blues, jazz, folk, eccetera. In soli 2 anni di attività Junior V ha collaborato con artisti tra cui Michael Fabulous, Cola Cola e Mark Wonder, stella del reggae giamaicano, quindi cioè, anche con grandi nomi, insomma, col quale è stato pubblicato il suo primo vinile col sul lato A The Case of the Progress e sul lato B la versione dub, prodotto e distribuito da Merrow Records. Di altro niente, a maggio del 2016 esce il suo primo album chiamato Running OJ My Way, 11 tracce che spaziano dallo ska al roots reggae, passando dall'acustica a ritmi più ballabili. Il disco vede la partecipazione delle voci di Ross The Weld in All Him, di Ho, percussione dell'orchestra italiana di Arbore in Futica, Francisca in One Perfect Love, dell'Etro Ras Abel in The Cradle of Humanity. Al momento è al lavoro per la sua nuova uscita discografica con Sista Hawa e Burnett Music, che abbiamo sentito prima, che vedrà tante altre collaborazioni internazionali. Quindi, detto questo di Junior V, ce l'andiamo a sentire con Il Labirinto, uno dei suoi pezzi. Bless up for Junior V. Sempre un filo logico che lega circostanze in modo armonico, non segue fisse regole di melodia, parole, note, sintomi di fantasia, intonando il percorso della mia vita, escalando la mia scala pentatonica, idee che hanno ritmo, percussione, percuoto, note, sensazioni, non per le salmiatia, diventa fuga. Rettami, ah, dentro la fuga mia brucerà, ho la unità, distanza per una realtà, ancora un po' spianita. Yeah, yeah, spirin, zipa, pis, pis, pis, spirin, zipa. Ti troverai perso e senza possibilità, calma e ritroverai la pazienza e la salvezza ormai. Spirito libero in un quadrato verde acrilico, fugge dal sistema come spiritico avventino. Oddio, confuso, sbaldo, batto per le lame, la vita fugge che ti spera, rezza. La presenza di Junior V, quantomeno telefonicamente parlando, c'è. Quindi ci siamo anche spoilerati la prossima settimana quale sarà la situazione, perché anche se c'era già scritto su Facebook, perché è stato da in questi 11 giorni che li separano dall'evento del 29. Bene, quindi detto anche che Junior V c'è ed è sicuramente parteciperà telefonicamente parlando. Detto ciò, appunto, andiamo avanti con gli artisti, perché è il momento dei Supa G. Anzi, no, dei Supa G, di Supa G. Che cosa dico? Allora, Supa G è un Gila Denjo Crew, distinta per lo stile rapper reggae e per la gran voglia di mettersi in gioco. Nel febbraio 2013 pubblicano un primo lavoro, un mixtape autoprodotto dal background musico-culturale della musica giamaicana. Nel marzo 2015 pubblica Genesis EP, un album di 8 tracce inedite prodotte dal mix The Freaks Studio di Ala, è distribuito dalla Major Brusco, Santo Bando, Tiano Bless e tanti altri. A proposito di Melo Mood, devo tentare di contattarli perché spaccano seriamente, sono troppo bravi. E niente, quindi facciamo che... Viene per passare, niente viene per restare. Scorre come l'acqua pura, questa vita è veloce, c'è chi viene e va. Scorre, scorre, imperterrà questa vita e di qua c'è chi di là. Intanto la gente è pronta con balla che arriva in su facci con amici e di bro, arredo con solo culo, solo che avanza. Questa è musica danza, parole alimentate di sana sostanza. No che non è che l'avanza, stiamo partoni di la stanza. La gente che si venga si campa, questa storia si sbaglia è pura abbastanza. Ci non metti il cuore, l'amore, il valore, ti rimane solo l'esperienza. Non ti basta solo l'esperienza, ti rimane solo l'apparenza. Ed è un personaggio creato, finto, postato che non te ne manca un'essenza. Scorre come l'acqua pura, questa via è veloce, c'è chi viene e va. Scorre, imperterrità, questa vita è di qua, c'è chi sta nell'aldilà. Scorre come l'acqua pura, questa vita è veloce, c'è chi viene e va. Scorre, imperterrità, questa vita è di qua, c'è chi sta nell'aldilà. Scorre, corre, questa gente fa le corse, sfruttano un pianeta che non ha più risorse. Scorre, imperterrità, questa vita è di qua, c'è chi sta nell'aldilà. Scorre, come l'acqua pura, questa vita è veloce, c'è chi viene e va. Scorre, come un essere umano che corpo l'aria, qualunque bruca assunto sono una persona. Siamo fatti di molecole d'acqua fino alla gola. Ogni ne tocca, nel corpo risuona. Unisce la gente in un'unica frequenza, in una sola. La musica la fa da padrone, non c'è camo. Di questa umanità che scorre. Beh, questo Pagì, grandissimo pezzo anche questo. Volevo rettificare una cosa, non ma sì, è noi la situazione, perché sì, è vero, amo altri generi musicali, ma comunque il reggae, dai, a chi non piace il reggae. Bless up for, avanti con gli altri artisti. E siamo arrivati all'ultimo artista che per la prima volta ci azzecca, perché la parola artista è una parola femminile. E in questo caso si parla di un artista del classe 1906 senegalese, ragazzi, una hype mentribile. Stiamo per sta Awa. Ragazzi, incredibile. Questa ragazza qua è incredibile, seriamente. Parliamo di una delle più promettenti interpreti della black music italiana internazionale, capace di registrare e scrivere un album come il suo. Lei si muove sugli stessi binari soul reggae che hanno dato lustro alle produzioni di Nicole Willis con i Soul Investigators e ad un certo sound che la Daptone e Sharon Jones portano avanti da parecchi anni. Anche se giovanissimo, d'urto in apertura a Barrington Levy e Lover Festival in Slovenia, cioè Slovenia, e il One Love Festival in artista unica nella geografia italiana, capace di fronteggiare la concorrenza estera pronta per i palchi di tutto il mondo. E avrebbe da dire, cioè, un carattere, un'età, ha calcato parchi e festival incredibili. Mi viene da dire che è anche abbastanza enorme. Piano piano questa qua si fronteggerà seriamente con tutte le con tutti gli altri reggae internazionale, perché alla fine dei conti lei si può considerare internazionale. Samir, mi guarda Samir, che a dirgli oggi mi sto poco imbulicando, quindi va molto bene così. Quindi dai, ci andiamo a sentire Sista Hawa quando siamo arrivati alle 6:15. Sista Hawa nel po', vediamo un pochettino canzone ci fa quel bel ragazzo di Yovo. Dai, un pochettino di Roots and Culture. Do you think I got no fight? free man. Do you know your roots and culture? Ask it to the man of the future. Tell it to the young and strong woman, because the knowledge is the key. Free man. In Africa, them be shoot you there and call my parents my way. I'm not that it cause I won't in. Mixed color one who will see for a long time. Some of them try to deceive me, yeah. For a long time, some of them try to oppress a part of me. Babylon's tomb is confusing us. Have a tinja, that is your power. Don't have no fear, let's climb the tower. Stand proud of battles, you do you know your son? Ask man of the eye, to the young and no man. Knowledge of free man, do you turn culture? Man of the future, tell it to the young and strong woman. Because the knowledge is the key for a free man. Go back to home. I wanna go back to Africa. I wanna go back in Senegal. I wanna go back to my sweet grandpa. Jam, jam, jam. Samareo. Jama bug dem. Samareo. Jam, jam, jam. Suma. Jama bug. Holy Samareo. My yak. Samareo. Holy Samai. Samar. Holy Sam. I wanna go back to Africa. I wanna go back in Senegal. I wanna go back to my. Do you know your roots and culture? Ask it to the man of the future. Tell it to the young and strong woman. Because the knowledge is the key for a free man. Do you know your roots and culture? Ask it to the man of the future. Tell it to the young and strong woman. Because the knowledge is the key. For a free bella lì, bella di Sofoli. Era l'ultima persona a presentarvi quest'oggi, quindi niente, si sono fatti le 6:10 qui in quello che è il 18 aprile del 2017 e nel frattempo fuori piove. Niente, siamo al momento dei saluti. Salutiamo e ringraziamo come al solito tutta Radio Wombat, anzi saluto tutta Radio Wombat per la concezione sempre del posto, sempre del fatto che faccio una puntata al mese e comunque loro non si incazzano troppo, e quindi big up for Radio Wombat. Del resto ricordiamo che ci sono degli eventi in polveriera, uno venerdì e uno domenica, sempre tempo permettendo, perché ho letto, anzi ho sentito, che il tempo in questo weekend non dovrebbe essere tanto buono, dato che si parla anche di 0 gradi e di probabile neve in posti molto alti. Quindi se il tempo ce lo concede noi faremo tanti eventi, se il tempo ce lo concede noi vivremo i nostri sogni, se il tempo ce lo concede forse troveremo anche del tempo per studiare. Comunque da Jovo